l'ospizio, pure nell'ospizio, pure l'ospizio, pure l'ospizio. Ecco qui sto pure l'ospizio. Arra, arra, vero. Ecco qui sto pure l'ospizio, pure l'ospizio, pure l'ospizio. Ecco qui sto pure l'ospizio. Arra, arra, vero. Pure lo spizio, ecco qui sto pure lo spizio. Arra, arra.